queste cose le ho fatte anch'io. E mi hanno fatto il culo a Tana de Grillo, lo sai. Non le persone, no. Pesco Poste me l'ha fatto il culo a Tana de Grillo. Tu lascialo qua. Ormai ho già parlato con quella persona là. Mi ha detto, non ti preoccupare, che lo troviamo, non sei lì a matare un capo. Ma ha detto lui, questa cosa non sbaglia, mi ha detto, non sbaglia nulla, mi dice pure a che piano è, se sta usando un cacciavite, se sta usando un pezzo di filo, se sta usando un diporo, mi dice che dice, a quanto ne ha fatto capire parlami, ecco. È un GPS, mi dirà, di goniometro, è come quello che c'è in macchina, oh, Luca, la stessa cosa. Il goniometro è uno strumento che serve alle autorità competenti, come le scoposte, per trovare chi è abusivo, in pratica, tutto lì, e chi rompe i coglioni. Ma siccome io lo voglio bene, so già chi è, le sto continuando a dire da ieri di smetterla, perché gliela mettono nel culo senza sputo, e lui continua, ma te lo continuo a dire con le collezioni di causa, perché io ci sono passato come te, quando ero ragazzino, che sono entrato in radio, più di 30 anni fa, ero più rompicoglioni di te, e non so perché tu lo stai facendo, a quale titolo, però mi piaceva farlo. Mi hanno sgamato e mi hanno fatto il culo a Tana di Grillo, quindi te lo dico con molta sincerità, stai molto attento, perché se ti trovano ti fanno il culo a Tana di Grillo e rischi anche la galera, credimi. Tu lascialo qua, tutti dimmi, ormai nel mirino qua, ci trovo, ma ha detto non ti preoccupare, ha già avuto di peggio, mi ha detto, non trovo a lui. Ma come fai un colpo di telefono, gliel'ho fatto, tu lascialo fare, tu, come se non esista. Poi una volta che lui arriva a destinazione, si fa sapere, perché comunque è lì, non c'è da fuggire, è lì. Sì, ma questo non sembra il dubbio, ma siccome io continuo a ribadire che sono una persona molto tranquilla, capito? Me ne sono uscito da imbecille, l'ho fatto prima di lui, negli anni passati, negli anni che furono, lo facevamo per divertirci, però lo facevamo anche per rompere le palle alla gente. E mi hanno sgamato, io pensavo che non mi sgamassero, cambiando antenna, facendo qui, facendo là, spostando radio, balle e vai. Però purtroppo quegli strumenti non sbagliano, quindi ti consiglio davvero, come un fratello, quindi mira, metti la buona in incusa e te truppio e passi guai veramente. A parte secondo chi trovi, non lo so come te ne rabbisci, comunque, fai tu, io ti ho avvisato, cazzi tuoi. E bene Bobo. Non c'è problema, già sono già in movimento, guarda, tempo che sono, non so neanche l'ora, i due, i tre, i quattro, che adesso. Ma come andiamo a due, lo sai che là? E c'è là, io non credo, cazzo. Chiamare quella persona là. No, glielo dici, a me che dai il mio numero, chiama a me. Fritto è ormai. Este fritto come la mancetta. Che oggi si è impegnato, ma comunque. No! Sento Claudio, caro. Aspetta Bobo un attimino. Da Barroggio. Positivo, una cosa di quello. quelle spettacolari. Bene, da nuovo. Un burro, Salvatore, un burro. Caparroggio. Un burro, veramente. Buono, gatta, buona ricetta mi hai dato, sì, veramente non avevo mai fatto così, va bene. Gatta. Luca? Dimmi. Ok, hai già tutto il movimento. D'accordo, va bene. Adesso vediamo un po' se ne mette. La deve mettere, e se no è imbecille. Se non è discapito nostro. È vero che non ha paura di niente, si sta sfidando le persone in frequenza, adesso sfida anche a quelli che sono, che non sono in frequenza. E per colpa niente. Ha chiamato lui, ha detto di sorvolare e di fregarcene, che è già tutto il movimento. Mi fa finta come che non ci sia. D'accordo. Ma vai, bombone. Mica c'è stato un greco. Ma devi parlare tu qua, se no la cosa non fa. Devi parlare tu, se ne hai più bassi. No, c'è stato un greco, c'è stato. Ma lo veniva avanti, io non l'ho sentito, vai. Avanti, greco. Era Rita o era Luigi? Non lo so. No, non è né Rita né Luigi, perché qua Rita arriva a 9 e Luigi arriva a 9:20. Avanti il break. Non sento nessuno, Bob. Ha detto break, l'ho sentito, vuol dire che non ne voglia rientrare. Vabbè, lasciamolo fare. Comunque parlate qua, tranquilli e sereni, senza nessun problema. Parlate di importante né di niente, che non ce ne frega niente, si arrangia chi si deve arrangiare, non siamo noi a dire niente. Silenzio stampa. Luca deve essere mai niente. Siamo usciti stamattina a pescare e si è fatto un freddo cazzo, ma un freddo che non si poteva stare. Capo, c'è la fredda, no? Ma freddo, va via, due giubbotti, sembravamo nel mese di gennaio, cazzo, un freddo, quest'aria fredda alle 5 del mattino, una cosa allucinante, minimo che erano i 6 gradi, poi è iniziato questo venticello fresco e poi è iniziato a piovere. Piano piano, le MLM hanno già tutte e te siamo andati. Sì, adesso vado a visitare a Cicco della Corte e a Birillo, me ne scendo un attimino e riprendo dopo. Chi Birillo? Lo dico, No, Birillo è Sicchendi, con Francesco Di Rio. Ah, e cosa vuol dire? Stanno bruciando il mais, no, togliendo l'umidità. Ho capito, non lo sapevo. Si vedeva in Sassarese, Sicchendi, così è. E Siccando, siamo qua la Russia, insomma. Adesso una scena, una filmina, e riprendo dopo. Grazie. Ah, la Russia, sì, grazie. Ma è da mio parente, non ci fai mai la scarpa. Da chi? La scarpa, non ci vai mai. Ti conosco. La moglie è parente mia madre. Capo, io conosco il genero, vai. Il genero di chi? Di Battista? Di Salvatore? Quelli che c'hanno l'azienda qua alla corte stai parlando? E di fronte dove c'era Dio Pietro Magattia, anche Magattia è mio zio. E Pietro Magattia ce lo conosco. Allora, vediamo tutti che facciamo quella strada. A destra si entra per la campagna di Dio Pietro. A sinistra c'è una strada, la vecchia strada, non lo so che strada è, San Giovanni, Bove, Fitto. Lì si entra lì, si percorre per qualche chilometro e poi c'è la tenuta di scarpa. scappa, dai. Sentiamo un attimo qua, un secondo mi aspetto, peccato, sotto, vabbè, vai tranquillo. Chi è che vuole entrare nel canale 10, basso, ce n'è uno? Aspetta un attimino il break, chi sei? Non ho capito. Attenzione, Ferrari 10, cappa. Aspetta Alessà, non ho capito chi sei. Giovanni? È molto basso, arrivi in mezzo al QRM, eh? Non ti posso dire il ben sentito, comunque buonasera anche a te. Avanti, il break, aspetta un attimo, lascia che c'è un break, avanti break. Avanti break, chi è? Giovanni, avanti. Per Paolo, chi sei? Avanti. Fai delle break, va bene, entri, avanti Alessà. Buongiorno Claudio. Molto grigia, ha piovuto un pochino, adesso non sta piovendo più, molto grigia, se non cambia siamo nei guai, ci tocca stare a casa a mangiare pane e formaggio stasera. Ehi, meglio le faccia un po' d'acqua per noi, meglio le faccia. Deve fare sì, altrimenti le campagne rimangono all'asciutto e non va bene. Caparrocchio, anche con le mie. Tempo suo è lasciato, tempo suo da stare a casa, ti ripeto, e prende giù la lira, mi. Avanti, ti vuole entrare, ho sentito un becco. L'ho chiamato anch'io il break, non è entrato, avanti break. Ne approfitto io, buonasera a tutti. Break l'hai fatto? Io l'ho fatto, ma visto che non è stato quello che ha breccato, sono fatto. Ah, così. Va bene, allora buonasera break, ben entrato. Scappa gatto. Ma c'era anche Luca, vediamo un po'. Luca? E sono qua, cazzo, sono qua. Sono qua. Cazzo, poi non va bene così, dai. Non rimane più portante, non va bene. Chiaramente si spaventa quando chi di competenza inizia a rompersi le palle, però allora non ci frega niente, non diamo abito di discorsi, non fino a tutti niente, già fa quello che deve fare. Ok, avanti Gianni, io Luca e Alessandro. Cappa, saluto a tutti, ebbene, come è andata la pesca oggi? Siamo volati a Rezinco e alle 20 di mese mattati. Ci sono 4-3 navi della sabbia, quindi non si può stare lì. Non si può stare né da una parte né dall'altra e nulla. Pure il tempo era brutto, però più avvicinando niente. Ma adesso si tenterà domani. Gianni e Luca. Ciao, Salvatore. In questi giorni che io lavoro con la borsita che se mi ha riempito i capelli, tutto di roba appiccicosa. Ma che c***o? Ha detto davvero? Sì, ma c'è... C'è un racchino, mi ha rotto le domande questo baracchino, Aspetta, là, Aspetta. Tu cazzo, dici che ti girava tutto malevati giù. Guarda, due sono le cose, ma è sporco dentro. Anzi, domani lo apro, no domani no, lunedì lo apro per vedere un po' se è pieno di qualcosa ci sarà dentro, perché passo il dito, ha provato col Midland, che non si muove nel Midland, che tu si muove pure da su laggiù, guarda c'è la roba là dentro, ecco perché, e ti fa la cosa da, come passo il dito fa la calamita, adesso lo sposta. L'aspetto non lo deve fare lui, non lo deve fare l'aspetto, solo l'acceso lo può fare. Vabbè, Signore, io vi saluto e vado a riposare un paio di ore. E poi alle 5:30 passa Franco, che lo serve, devo andare a fare quella commissione. Se no, stasera c'è uno zombie. Ciao Gianni, Alessandro, Luca e chiunque fosse in ascolto. Ciao a tutti, a più tardi. Ci sentiamo, ci vediamo stasera. Ciao Alessandro. Claudio, allora, vuoi qualcosa? Importalo, cassetto. Ah, e Franco l'ha fino a fatto, ce l'ha cuccato. Mangiava un boccone e poi si sdraiava anche lui e Luca, che se vuoi già dare guato. Te lo sai stasera che cosa c'è? Avremmo a dormire la gadria. Noi ci riposiamo un po' così stasera siamo tutti freschi. Si conferma, va bene. Vi saluto a tutti, ci sentiamo più tardi lui. E se no alle 5:30 passa Franco e già ci vediamo là. Ok? Ciao a Rocci, va benissimo. Ciao. Alessandro, lavoratore di grano. Senti qua Lucariello, Gap. Brutto passato, non avete la portata, no? Avevo un reddito del falato. La novità custicchia. Positivo, ma c'è sempre C'è sempre qualcuno, capito? C'è sempre qualcuno, là, da tutte le parti c'è sempre. C'è sempre, quando sono nel Cagliari c'è sempre la portante, c'è sempre. E, boh, sembra che sia una cosa. Ci deve essere per forza, ecco, poche parole, è una cosa normale. Beh, lo so, c'è sempre quello che rompe le balle, c'è sempre tanto. E quando ci sono io c'è sempre stato, sempre, sempre, sempre. Guarda, Falcone era numero uno. È positivo, stavo parlando con l'altro microfono, invece è spenta la radio. Ritrovato a parlare, ho preso il macchio dell'altra radio e stavo parlando con quell'altra, però non mi ha ascoltato più sicuramente. No, ce l'aspettano. Puoi stare tutta la sera, tutta la notte, se mi chiami stai tranquillo, non ti sento. A meno che l'accendi, allora sì, spenta, non anda, non anda, ci vuole tensione. E si conferma, no, no, mi è venuto spontaneo a prendere quello, chissà come mai, e stavo parlando con quello, però mi sono reso conto che non era così la questione, che era il microfono sbagliato. No, io non sbaglio qua, eh. Non sbaglio, ce n'è solo uno, microfono, e altri sono conservati. Vabbè. Io a casa di Franco un giorno sono confuso. A chi da tutti i vicini, guardi. Come si deve schiacciare, quello che devo schiacciare, si è schiacciato un altro. Dico, ma che cosa vuole scendere? Ah, non vuole che mangi il microfono, guardi. Mi è successo a me qua, là. Ma perché mi sono reso conto, ho preso l'altro in mano, di solito adopero sempre quello e mi è venuto spontaneo là, parlare su quello là, capito? Però andare là, me ne sono accorto subito. Stamattina stiamo cercando la tarina, non ti ha trovato. Non c'ero stamattina al tavolo, non c'ero, dovevo fare tante commissioni e negativo, non c'ero proprio, c'è un assorbimento di 4 ampere, 4 ampere. No, capito, ce l'avevi? No, stavo guardando, mi sta assorbendo 4 ampere questa radio qua. Come devo riuscire? Quanti watt ti stai dando? Ecco, adesso sempre lo stesso sono, sempre come lo gelo sempre. Ma quando gira la scala di sotto, lo smitter, ti segna di quanto ti sta dando. Cosa giro? Non ho capito, lo devo girare. Ho detto, basta guardare nella scala dello smitter. Così vedi quanti watt ti sta dando. Non lo so, cosa è qua, se può vedere, non lo so, io non saprei cosa quanti mi sta dando, non lo so, bisogna metterlo nella, attaccarlo alla, come si chiama, e me lo dice subito, allo strumento. No, già c'è, lo smith, lì, controlla bene, prendi la lente, c'è scritto watt, mi sembra che c'è la scala di scuola centrale. Sono tre scale, una è il rosmetro, una è il wattmetro e l'altra è del segnale, è ricezione. No, ma cosa stai dicendo? Non ho capito che cosa sto parlando. Con che radio sono? Sì, io lo so. Col K. K del Roger. E beh, non c'è nulla, no, qua non c'è scritto quello che stai dicendo tu, non c'è. Grazie, leggi bene. Ci magari arriva a 150 massimo. È positivo, arrivo a 150 sotto, sì. E beh, cosa sono quelli lì? Io sto, però non rimane fermo l'ago, come faccio a controllarlo? Va da 50 a 100, a 100, quasi a 150 a volte, secondo come moduli. Rischia, ti rendi conto dove arriva lo smitter? E beh? 120, boh. Ma non è, che cosa stai dicendo? Non sono un matto quelli lì che sta. No, lascia perdere. Però è così, dai. Ascolta, lui mi fa arrabbiare. Non mi fa arrabbiare per cortesia, perché tu, lo sai. Ti sto dicendo che c'è. Ma quello non è diverso dal vice di Franco, vice di Claudio. C'è, controlla, c'è. Sono tre scale, una dei FAT, l'altra del SVR, del rotmetro e l'altra del segnale. È positivo, dai, sono, allora, come non rimane fermo questa cosa come modulo? Sale, sta a picchi proprio, oh, 100, 100 così fa. Qua stanno 100 watt. Probabilmente sono reali tutti, oppure, non so, andavo, alla grande, più scalda e più me ne esce. Tu la fai accendi e una cagata, una volta che scalda esce un bijou. Ehi, ma non è da 100 watt questa cosa, non ci arriva a 100 watt, hai capito? Oh, può darsi che le dia, però io non sono, neanche a metà di cosa, di corsa qua, cosa, non lo so, però l'attacco al rotmetro lo so subito, l'attacco alla corriscola e la controllo a vedere quanti batti sta dando, è giusto quello che sta dando qua, ma quello si arriva fino a 100, arriva giusto, 100 watt da quello lì. 150. No, quello che mi hai dato tu, mi hai venuto tutto quanto va, 100 watt quello lì. Ah, sì. Lo provo a vedere quanto sta dando su quel coso lì, a te che attaccano spezzone, lo provo. Guarda che rischi di bruciarlo lui, prima guarda quanti, c'è scritto nel coso lui, cacchio, boh. C'è scritto nel rotmetro, scacca il tuo apportante, quanto arriva? A 7, a 9, quanto arriva? A 100, se faccio così rimane il piso a 100, se il muro fa picchi 120 pure. Ah no, attacca lo solo, lo bruci quel rotmetro, quel vatmetro. Così sì, allora attacchiamo nulla, la lasciamo tutto così e si conferma così, dai. Perché massimo fa 10-100, io ne uno che fa 5 un chilo. È positivo, ma come mai è scaldata e salita questa cosa? Se no non era sette prima, era. Vedi, quasi a 9, era sette prima. E sta scaldando, la sto scaldando, più scalda più bene esce. Sta andando bene lui, va tranquillo. Sta andando benissimo, capito? Meglio non può andare, meglio sì. Sono ultimo con la radio. Forse è per modificare la nuova di Claudio, allora la musica cambia. È positivo, positivo. Ma non lo so se lo dovrei. Adesso quando lo accendi rimane più bassa questa cosa, non arriva neanche a 7. Poi inizia a scaldare e si arriva quasi a 9, non ho capito come mai. Sta scaldando il finale lui. Ah, tu dici aumenta così, più scalda e più aumenta. Adesso da un bel po' che è accesa. È da tanto che l'ho lasciata accesa ed ecco perché è calda. Hai già un paio d'ore che è accesa. Già toga. Ascolta un attimo, lui mi ha chiamato la mamma. Adesso ne sarò un po' alle spalle, aspetta. Ehi, già l'ho sentita che ti ha chiamato. Ehi, eccomi qua. Chi è che pisci avanti? Chi è che vuole entrare? Poi Pikachu. Ah? Che dice? Senta la mano più basso, non mai, cosa hai fatto? Eri quasi 9 ieri, 6-7. Fai? Oh, passa in basso il radio. Ma che non lasci di indietro l'antenna, ragazzi. Prendi una moto carrozzella. Tu casa mia, Eri. Ah? la mia, ma la cosa la metto io. Pascoli. Già sono lì, quella zona più o meno, dai. Avanti lui, lo senti a quella 1? No, negativo, non l'ascolto. Oh Luca, ho passato adesso, l'ho portato indietro, lo mette a 7, va bene lo stesso così Luca. Sì, sì. Mi sembra che la radio sia più forte, quella squillante. Segnale 9 spaccato da me, Ma l'ho abbassato a portarlo a 7, hai capito? L'ho fatto tornare lo Smith a 7, l'ho abbassato, capito? Era quasi a 9, adesso l'ho fatto scendere, ho visto che non sale più di... Vedi, arriva al minimo 60 adesso. Ah, ti ascolto benissimo lui, ti ascolto benissimo. Segnale 9 spaccato, radio 5 ben fischiato. Meglio non potresti andare, poi se vuoi andare meglio, allora... Poi lo salire di fatto. No, l'ho abbassato da come era prima. L'ho abbassato, ma l'ho fatto scendere a 7. Come più bassa di radio di come era prima, così il segnale è molto più basso. No, sì, il 9 è spaccato. Poco fa lo facevo di 9. Non è cambiato niente qua. La radio sembra più squillante. Ah no, l'ho tornato solamente indietro, io no, era capito, l'ho abbassata, se mi è salita quasi a 9 l'ho tornata indietro, io l'ho abbassata a 7, hai capito? Va bene lui, va bene, fa scaldare però la radio, fa girare, poi anche se non vuoi parlare, se non è voglia che devi fare roba, la tieni accesa, ma rimane sempre bella pronta a parlare. È 2 ore che è accesa, cosa? È un'ora e mezza abbondante che è accesa, o se no di più pure, hai capito? L'ho lasciata accesa, poi sono andato al bar, prendo il mio caffè, l'ho lasciata sempre accesa, e visto che stanno aumentando di segnali, allora l'ho abbassato un po'. Ehi, chi vuole entrare avanti? Chi vuole entrare? Non è a Puglia, ma andava. Bravo, lo senti a Luigi? Capito che mi ascolti, io per me qua è un problema ascoltare te, io non proprio nulla, zero completamente. Ma dove è andata? A sinistra o a destra? Tutto a a destra. Sale a palapena? È tutto a destra, cosa salgo? Che non va oltre. E sale appena, torna a sinistra, uno scatto a sinistra. Guarda un po' adesso, uno, due, tre. No, sale ancora. Tanto sei a Maretta, cosa salgo? No, dai, il tastino piccolo che c'è più sotto, che cambia la tonalità della voce. È tutto a destra, aspetta, così è a sinistra, così è tutto a sinistra, così a sinistra lo stesso, qua, così a manetta. Ma non lo dai del gatto, mi dice il dottore. Ma pigliare il culo, mi sono risolto. Ma se non è funzionante, allora devi toccare dietro. Ecco qua, 1, 2, 3, com'è? No, si sente, la voce non cambia. Scendo tutto a sinistra, a destra adesso. Tutto a destra, adesso, com'è? No, non sta andando. Ero da voi ci dica. Vabbè, avanti lo cavo, così andrà meglio. Così è normale. Guarda che arriva in vecchio, guarda come ci fanno le polpi, guarda. E me l'ha visto con un cannavo, e abbai. La signora Boy, ma va. Ma è. Hai capito, gli ha legato un pezzo, va. Allucinante, via. Non so di dirti, lui meglio va, Alex. Ehi, adesso va bene, perfetto. Per carità, è così. Ora diciamo il compito della mattina, Luca. Non rimane certo perché l'ha graffiato, mi si è graffiato. E mi tocca guardare la vernice. Meglia. Ok, questo signore che c'è su linea blu. Linea blu prende ogni giorno 40 kg di polpi, polpi, con un pezzo di sfido. Il signore ma grande di età, avevamo una tantina d'anni. Addirittura, un pezzo di sfido lega un pesce morto, forse va che sarà ghetto, con un amo grande, 40 kg ogni giorno è qua. Aspetta, solo polpi prende. Cavagara, andare via la mera. Vai Luigi. Beh, c'è anche quella uno fra. Ciao quella uno, buonasera. Che Paolo? Portate, non vedi più. Non me l'ha detto questa parola qua. Quando avete bisogno, mi fa uno squillo e poi ci penso io. Vabbè, guarda cosa stavo dicendo io. No, si sa ancora, c'è sparito. Quello non entra più adesso. Ma comunque già sotto controllo tutto, dai. Ma è quello che penso io, ecco. Perché io l'ho già misurato l'altro giorno per le macchine. Io poco fa le macchine andavano vicino. Era già pizzeggato. E allora c'era lui, dai. Poi bisogna essere sicuri, fra. Io, comunque, quando ci riprovo basta di andare sotto e vedi subito. Chiama Rocci. Gigino. Ho fatto Luigi. Sto sempre fumando, per carità. Ma va bene quella cosa. Luca, va in saturazione a morte, capito? Se la giudizi, allora tu vai giù. Infatti, non andava. Oh Luca, volevo provare quel microfono normale qua, quello che hanno dato tu, avevo messo. Prova. Radio normale, Luca, com'è? Una cagata? È normale, è un po' malattosa. Questo è il microfono, quello che hai fatto tu. Ehi, ehi, è normale, fra. È normalissimo. Andiamo un po', aspetta. KK, questo è il microfono normale di questo apparecchio, gatto. Perché questo non è normale, gatto? Cazzo c'ha fai, Luca, per carità. Ah, mi trattuvito un poco, cava. Io lo sto facendo andare un po' con questo normale, dai, almeno non rompo le palle a nessuno. Aspetta un attimo, quanto è il segnale adesso? Adesso 9.30. 9.30. Cava. Cava, guarda un po', 1, 2, 3. È salito appena, sei sopra fondo scala. Gigi! Attento, Gigi, arriva il vulcano, Gigi. Ma, Afra, ma dalla casa esce col... quando tu metti il microfono si sente lo stesso, oppure lo fanno. No, esce dalla casa così. Questo l'ha modificato. No, questa c'era la casa così, capito? Gatta, gatta. Vabbè. Allora. Ehi, andrà bene. Mi sto preparando a vedere una cosa, una di vino, Gippi. Una da tre, ma... Comunque, bisogna attaccarci i calamari, Luca, capito, Gippi? Oggi non c'è problema, quando vuoi. La prossima ci può anche scendere. Sì, bisogna organizzarsi perché ne stanno prendendo i calamari, capito? Attento Luigi Vulcano, se tu hai l'opportunità di ascoltarmi, cappa. Ho fatto Luigi a Luigi, con il suo microfono. E pure la famosa stava rompendo, cioè, ha detto cosa anche a Mo Gannino, un gatto, io posso brillare, Mo Gannino. Ma sono uscito. Luigi! Però mi ha dato la famosa, ora. Chi su granco, cos'era? Un... Ah, una capamarina. Santo, quindi so. Allora, sono buona, però quella grande. Però sono grandi e piccole, vabbè. Vabbè. Vabbè. Che succede? Quella grande vanno bene. Io mangio una mosca. Sta parlando la porta a seguito. Ma c'è chi è? Cosa? Tu mi lascia per verticale a divino. Raga. Che fa la abbastanza. Ah, uscire. Lascialo qua, fratta. Tu la dici vuol divisti, no? Ah, ma a me non me l'ha sostenuto. Ognuno gli deve fare il cazzo che vuole, no? Cosa me l'ha fatto? Comunque, tutto graffiato mi scelgo la merda di coso. Cosa? Cazzo, l'ho tutto graffiato. Voilà qui. Cazzo, la giù di montare, cazzo, un casino qua, per carità. Anche 2,50? Sì, cazzo, l'ho smontato, un po' pulito, adesso lo tiene giù. Sono graffiato, cazzo, boh, non so come mai sia tutto graffiato, boh. È un casino, raga. È un casino. E la benita! Arrivederci! Ma scusa, ci vuole il fondo prima, fra. Cioè, c'è una gaggata. Compriamo una bombata di fondo. Andiamo là, lo fa asciugare un po'. Poi andiamo una passata leggera di carta della cifra. Quella bagnata con l'acqua. Una volta che lo vedi liscio liscio, lo asciughi bene, il culo massa delle bomboletta, vedrai che esce benissimo quel coppetto. Ma volevo parlare a un amico e me lo sa il colore degli altri, capito? Quello era un amico. E questo amico me lo fa, è uguale identico. Me lo fa tanto e me lo rifà. Gaba gaba. Kappa kappa gaba gaba. Gaba gaba gaba gaba. Vabbè. E a voi. Comunque già va bene lo stesso Luca, questo microfono, dai, normale, è un microfono normale, no? E che puoi cambiare, no? Le portate si sente bene, la voi non me la fate nulla. Perfetto, no, va bene. E invece ora facciamo un tipo di moralità, che fa? Questo non l'ha nessuno perché è il microfono originale, Luca, tu ce l'hai il suo originale. Sì, sì, la Fayette, sì, sì, nero, uguale a quello, uguale, uguale, uguale. Gava gava, la Fayette dinamico 507. Poi ho detto più nuovo, quello è nuovo nuovo, il mio è un meno, poi che è nuovo lo stesso, Vai, vai, un baracchino che fa nominare, Luca, non ti lamenta. Va veramente bene quel baracchino. E io a Puglia, che andava, solo che questo problema che mi fa ogni tanto, che ti ho detto stamattina, che quando lo accendo, se vado a qui telefono scala, ma dopo rispegnerlo dal macchino riaccendo, si riprende. Uffa, ma fondo scala come? Va di corto e poi se ne ritorna indietro. Prima la fondo scala. No. Bugia mia, bugia mia. Scatto la portata e torna indietro. Ah ecco, infatti la portata torna indietro. Va, va, va. Cavallo, cavallo, cavallo, cavallo, cavallo. Va, va, va, io non lo vedo. Ah ecco, qua. Cavallo, cavallo, cavallo. Sto facendo asciugare quel coppetto perché se lo tocco adesso, cazzo, è fresco. Vediamo un po', adesso che non posso asciutto. Ah, il valigiato è già. Ma puoi dare 4 ore che va asciutto, Luca, rapido. Già. Ho detto se hai ripreso a lavorare da oggi. Ti consegnano dalla morte oggi. E vabbè, te sei vicino da voi. Si riuscito a ciappare un muro e ho gattato pure a cabare, a bomboli. Ciao, abbiamo Puglia. Ma che vicino di là? Da 30, no, quella da 15. E l'altra, chi è la più pesante? Caffa, sì. Già va bene, ma io vado la cosa a prendere, ma vado io a prendere il moto, la pistoluzzi. E la volta la sicuro è tu. Fatto, mando in moto. Usciamo in faccia di scena. 22 da 10. La moto c'è una 21,50. Cosa? Uiaia. Ascolta, un attimo che vuol dire. Ah, quella magna, Beppa, poi riprendi, dai, mangia, mangia. Cava! Ti già viene un vulcano!